And now here's the second dialogue. Numero 2. Buonasera, signora. Buonasera. Avete una camera singola, per favore? Una singola? Un attimo. Sì, abbiamo una camera singola. Con bagno o con doccia? Con doccia, per favore. Certo, con doccia. Per una notte? No, per due notti. Ah, bene, per due notti. Lei e la signora? Thorpe. Mi chiamo Julie Thorpe. Bene, benvenuta, signora Thorpe.